Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Noi saremo in diretta però anche lunedì, martedì e mercoledì. Nessun ponte di Sant'Ambrogio dell'Immacolata per il programma. Immagino invece che molti ascoltatori siano già in movimento, quindi spero che riusciremo ad accompagnare anche loro oggi nel raccontare questa giornata economico-finanziaria. Oggi c'è l'astrologa, prima che me lo chiediate al 349-238-6666 avremo nella seconda ora del programma il ritorno della nostra astrologa dopo le previsioni effettuate da vari istituti, ce l'avete richiesto con insistenza. Allora ci avviamo alla fine dell'anno, sentiamo un po', devo dire che ci ha imbroccato abbastanza l'ultima volta 6 mesi fa sull'andamento di borsa, sulla correzione di fine anno. Partiremo invece con un tema serissimo, e cioè le iniziative che anche la Confindustria calabrese sta prendendo sulla scia in qualche modo della Confindustria siciliana. Espulsione e linea dura, durissima, l'ha detto ieri il vicepresidente Confindustria con la delega alla legalità Montante, tolleranza zero nei confronti di chi non adotta il codice etico, di chi viene trovato in sospetto di collusione con mafia, 'ndrangheta e camorra. Ne parleremo con quello che di fatto è il commissario straordinario messo dal Collegio dei Probiviri di Confindustria a Reggio Calabria dopo l'azzeramento della Confindustria calabrese, si chiama territoriale in gergo, della Confindustria di Reggio Calabria. È un imprenditore minacciato più volte dall''ndrangheta e sta svolgendo il compito che noi abbiamo battezzato di commissario, insomma, straordinario della Confindustria di Reggio Calabria. Ancora su questo vogliamo essere molto seri, anche perché partirà, come poi racconteremo, un'iniziativa la settimana prossima di Radio 24 proprio per seguire quella che noi abbiamo battezzato una nuova primavera calabrese. Non è vero che nulla si muova, c'è un pezzo importante di società che noi chiamiamo civile, perché l'altra è incivile, che si è messa in moto e cerca di far sentire la sua voce in una terra devastata dalla criminalità organizzata. Il tema è anche economico, si calcola infatti che l''ndrangheta incida sull'andamento economico della Calabria per un 5% complessivo. Del resto fattura 44 miliardi stimati di euro l'anno l''ndrangheta, e di questo parleremo in apertura. Poi mercati che vanno abbastanza bene, più 0,3% Milano, come Parigi, Francoforte invece invariata, Londra invariata, l'America invariata. L'euro è in recupero, a dimostrazione che l'operazione, la decisione di ieri della Banca Centrale Europea sta servendo ai mercati, è quasi a 1,34. Volete sapere se Eni perde dopo le rivelazioni presenti oggi su tutti i giornali di Wikileaks e quindi i rapporti tra il presidente del Consiglio Berlusconi e Vladimir Putin, di cui l'Eni sarebbe, diciamo, secondo le indiscrezioni apparse, sarebbe strumento, e quindi gli accordi per il gas, diciamo, i cavolo delle ambasciate americane che guardavano con sospetto il ruolo dell'Eni in questo rapporto Italia-Russia sul fronte gas. L'Eni non è in questo momento, non subisce variazioni, è invariata, meno 0,01%, quindi nessun effetto sul titolo del cane a 6 zampe, così come invece perde A2A il 3,40, Geox meno 2,2, Mediolanum meno 1,20, Telecom meno 1%, Fondiaria meno 0,80, come Prismia nell'automatica e Finmeccanica. Bene ST Microelectronics, molto bene, ne parleremo, più 6,80%, Autogrill più 2,2, Unicredit più 2,2, Italcementi più 1,3, Fiat più 1,1. Qui ci sono notizie, rottura delle trattative per Mirafiori, adesso ne parliamo con i mercati finanziari. E ancora di Fiat parleremo, ma anche del rapporto Censis, fermo restando che lunedì avremo un approfondimento sulla parte più economica, finanziaria, del rapporto annuale, della fotografia qualitativa che ogni anno il Censis scatta su questo paese. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Petrolio $87 al barile, quindi fermo, benzina sopra a 1,44 euro ai massimi da maggio, L'oro si avvicina al nuovo record, fu toccato il 9 novembre scorso a 1424 dollari l'oncia, siamo già a 1400. E le notizie non buone che arrivano dall'America riguardano la disoccupazione, il tasso è ai massimi da aprile, è tornato al 9,8% il tasso di disoccupazione, segnale questo, come ieri raccontavamo nel lungo approfondimento che abbiamo dedicato, segnale questo che c'è stato un rallentamento complessivo dell'attività economica negli Stati Uniti, oltre che in Europa, purtroppo nell'ultimo trimestre dell'anno. Parlare però di double dip, ossia di doppia recessione, è a mio avviso assolutamente improprio in questo momento, perlomeno. C'è un rallentamento, non c'è una nuova recessione. La Casa Bianca ha detto però il tasso di disoccupazione è inaccettabile, siamo d'accordo, però poi bisogna provvedere. In America comunque un'altra brutta notizia arriva dagli ordinativi industriali, meno 0,9%, il primo calo da 4 mesi negli ordini che riceve l'industria. Invece va molto molto bene la Germania. Il PIL tedesco, quindi l'economia tedesca, toccherà un tasso di crescita quest'anno che è il più forte dal crollo del muro di Berlino, dalla riunificazione, più 3,6%. Lo ha comunicato oggi la banca centrale tedesca, la Bundesbank, che ha rivisto in meglio le previsioni. E però prevede un rallentamento nel 2011-2012 al 2% e all'1,5% nel 2012. Questo è grazie alla Germania che è riuscita a agganciare l'andamento cinese e indiano, è molto forte nelle esportazioni a grandi gruppi che sono presenti in quelle aree già da tempo. Si riducono, e questa è una buona notizia, gli spread, la differenza tra quanto rende un'obbligazione italiana e una tedesca sotto i 150 punti. Anche per il Portogallo va in quella direzione, così come per l'Irlanda e per la Spagna. Quindi insomma le tensioni sui debiti sovrani di questi paesi sono in allentamento. Poi oggi Standard & Poor's ricorda però che c'è un rischio di probabile recessione in Portogallo nel 2011 e il vice ministro delle finanze di Berlino Amundsen ha detto che insomma l'idea dell'Eurobond, cioè di obbligazioni europee che possono essere utilizzate dai vari paesi, è un'idea da bocciare. Secondo alcune descrizioni di stampa, oggi intanto la Banca Centrale Europea starebbe comprando obbligazioni irlandesi e portoghesi. È intervenuto di nuovo il presidente Trichet. Ha detto la moneta dell'euro non è in discussione, è assolutamente credibile, non c'è guerra tra monete, e la guerra tra monete è un'espressione sfortunata. Abbiamo degli obiettivi solidi e credibili per il 2011, occorre però attraverso questa crisi rafforzare il patto di stabilità. Allora, il rapporto del Censis, ripeto, ce ne occuperemo in maniera più esaustiva, spero, lunedì prossimo, però oggi il titolo, insomma, il Censis è sempre molto immaginifico nei titoli, ricorderete la mucilagine sociale, questo modo che avevano gli italiani di tenersi assieme senza sapere perché, come le alghe un po' in balia del mare, nel rapporto di un anno fa. Oggi parla di Italia appiattita, senza più legge né desiderio. Una delle analisi più forti, anche perché il Censis è sempre stato un cantore delle qualità italiane, dell'identità italiana, delle specificità italiane. Ricordiamo le varie inchieste sul piccolo e bello, sui modelli italiani, su questa capacità che ha l'Italia sempre di adattarsi al cambiamento. De Rita, che è il presidente, ce l'ha raccontato molte volte, quindi fa ancora più specie vedere che proprio il Censis, che non è mai stato, diciamo, critico sul modello italiano, descrive un paese appiattito che stenta a ripartire, un inconscio collettivo senza più legge. E insomma qui faremo anche una puntata forse sul crollo del senso di etica che si registra nel paese e che è anche un danno economico, come abbiamo spiegato molte volte, e desiderio. La finanza pubblica viene definita in apnea, in una situazione assolutamente non facile. L'attesa dei contribuenti per una riduzione della pressione fiscale non sarà soddisfatta, visto che, fa notare il Censis, si manterrà costantemente al di sopra del 42% la pressione fiscale sul PIL. Bene, il 91% dei disoccupati di famiglie monoreddito in Italia sono da considerarsi a rischio povertà, contro il 32% del Belgio, il 55% della Spagna e il 75% del Regno Unito. Gli italiani vanno in pensione, aggiunge il Censis, con un reddito non dignitoso, occorre lavorare più a lungo per risparmiare per la vecchiaia. E poi il 40% degli italiani non ha risparmi, ma la casa, cioè non ha risparmi da utilizzare, la casa è ancora il bene rifugio. Lo dice il Censis, non lo dice l'opposizione, non lo dicono, diciamo, cattivi ragazzi. È inutile che la buttiate in alcuni ascoltatori al 349-238-6666 in politica. Sentiamo invece il giudizio che dà il presidente De Rita sulla situazione politica attuale, e interviene anche sul ciclo berlusconiano. Del resto De Rita ha sempre parlato anche della politica. In Italia non ci si preoccupa mai troppo, fa parte della nostra serenità di spirito, fa parte della nostra consapevolezza di avere un modello dentro solido, un modello che gioca sulla piccola impresa, sul lavoro sommerso, sul localismo, sulla patrimonializzazione. L'abbiamo visto in questi 10 anni, le tante paure sono state superate. Adesso il problema non è tanto di avere paura, preoccupazione per il futuro, perché tutto sommato al massimo abbiamo paura di avere un po' più fatica di vivere, ma non pensiamo a tracollo. Il fatto vero è che non abbiamo vigore per il futuro, non abbiamo la voglia di rigiocarci tutto. Adesso questo nostro paese in fondo non ha più uno spessore intellettuale forte, in parte perché si è appiattita anche intellettualmente, diciamoci la verità, ma in parte perché non funziona in ciascuno di noi, se ci pensiamo bene, e nella società nel suo complesso, quella grande modulazione del rapporto fra desiderio e legge che ha fatto l'inconscio individuale e l'inconscio collettivo. E dall'altra parte non funziona neppure il desiderio, perché il desiderio siamo tutti appagati, addirittura i nostri figli ricevono regali che non hanno mai desiderato, giocattoli che non hanno mai desiderato, ma tutti noi abbiamo il settimo telefonino mentre abbiamo desiderato solo il primo. Quali sono le leve che bisognerebbe muovere per riattivare questo vigore? Che non c'è un problema di mettere insieme misure, le misure che abbiamo visto non funzionano. C'è da mettere insieme una psicologia collettiva, noi diciamo tornare a desiderare, desiderate quello che gli altri non vi offrono. Il meccanismo della crisi italiana è molto più sociale che economico. Beh, come sempre spunto di numerose riflessioni De Rita, che appunto come riferimento alla politica ha detto solo che Silvio Berlusconi è l'icona del soggettivismo, un ciclo, il soggettivismo, non Berlusconi, cominciato 50 anni fa e che ora ha esaurito la sua potenza. Mi sembra però molto più interessante il ragionamento che fa il Censis sull'assenza non tanto di rischi economici enormi, per quanto la situazione non sia bella, ma proprio di un'assenza di vigore verso il futuro. Non è sopravvivere il nostro problema, è vivere. E l'assenza di spessore intellettuale, il paese che non riesce più a esprimere uno spessore intellettuale, l'appiattimento, tutte parole che avete appena ascoltato, l'appiattimento intellettuale, e non servono misure economiche, anche se a nostro avviso qualcuna ci vorrebbe, ma sono misure economiche drammatiche, serve proprio la capacità di ridare un senso di desiderio all'intero paese, dove stiamo andando. Ora noi prendiamo anche come critica noi stessi queste rilievi, queste analisi del Censis, proprio perché non vogliamo seguire la linea dell'appiattimento intellettuale, del rigore, anche se si può usare questa parola, morale. In un programma di economia torniamo a parlare di criminalità organizzata, non ci accontentiamo di parlare solo di borsa, per quanto importante sia, o di dividendi o di trimestrali. La criminalità organizzata è anche, oltre che soprattutto, ma è anche un danno economico per questo paese, ma non lo fa solo Focus Economia. Dalla prossima settimana lo farà tutta Radio 24 con un viaggio in quella che noi abbiamo battezzato la nuova primavera calabrese. Ma questi che stanno facendo? Si ribellano. La rivolta ha attraversato lo stretto. Dopo la Sicilia, anche la Calabria si sveglia e inizia a ribellarsi alle mafie. Ma non è un pianto, è un grande urlo di rabbia. Nella punta dello stivale è cominciata la primavera della società civile e Radio 24, dal 6 dicembre, seguirà le rondini della rinascita calabrese. Quello che avete appena ascoltato è il promo, la pubblicità che stiamo mandando in onda del nostro viaggio dal prossimo 6 dicembre. Di criminalità parla anche il Censis, dice insomma con la crisi aumentano i rischi dell'infiltrazione criminale. Nelle quattro regioni più a rischio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, sono ben 448 i comuni in cui sono presenti organizzazioni criminali. 380.000 le persone che stima il Censis vivono subendo il pesante condizionamento delle mafie. Allora, noi l'abbiamo chiamata primavera, insomma, si sta muovendo qualcosa in Calabria dopo che la Sicilia, a livello di industriali, ha avviato 3 anni fa una campagna molto importante, l'abbiamo seguita, quella dell'espulsione di qualunque tipo di imprenditore che pagasse il pizzo, fosse colluso con la mafia. Allora cerchiamo di parlare di questo. E allora, non solo, dicevamo, la nuova primavera, come l'abbiamo ribattezzata, calabrese, perché? Perché dalla settimana prossima, lo ricordo anch'io, Radio 24 ogni mattina nei GR delle 7 e delle 8 e poi in Controluce e in altri appuntamenti racconterà questa nuova primavera calabrese partendo da quella che si chiama società civile, cioè tutti quelli che non fanno notizia ma stanno risvegliando le coscienze in Calabria, e lo diciamo senza alcuna retorica. Poi c'è il colpo dato al racket a Caltanissetta, in questo caso quindi la mafia, oggi su tutti i giornali nei nostri GR. C'è il sequestro di 3 milioni di euro di beni, questa volta sì in Calabria, Cosenza, da parte della polizia e della Guardia di Finanza, notizia di oggi. E il dato allucinante, insomma, di boss dell''Ndrangheta che risultavano nulla tenenti ma poi riuscivano a pagare il mutuo acceso per comprare le loro case con soldi chiaramente non dichiarati. Tutto questo è emerso dall'indagine che, lo ricorderete, a luglio ha portato a una decapitazione dell''Ndrangheta sul territorio lombardo e della provincia di Milano. L'inchiesta si chiama Infinito, 80 immobili sequestrati per un valore di circa 15 milioni. Detto questo, a fine mese, come anche qui abbiamo raccontato, per quello che riguarda il mondo delle imprese, dell'economia calabrese, è stata commissariata la Confindustria di Reggio Calabria. Il Collegio dei Proviviri di Confindustria ha dichiarato cessati tutti i mandati e le cariche, azzerata la giunta, quindi, dopo le dimissioni di 20 componenti, e ha nominato Filippo Callipo, imprenditore nel settore del tonno, alla quarta generazione, minacciato più volte dall''Ndrangheta in questi anni. Ha nominato Filippo Callipo, dicevo, il rappresentante legale pro tempore dell'associazione degli industriali di Reggio Calabria, una specie di commissario, è in collegamento con noi. Dottor Callipo, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, raccontiamo, proprio perché ce ne occuperemo la prossima settimana, come abbiamo fatto con l'iniziativa di Vanoio Lobello e non solo in Sicilia 3 anni fa, quando si prese una posizione durissima contro la mafia, espulsione di tutti gli imprenditori che pagano il pizzo. Si diceva, ricordo anche uno scontro che ebbi con il presidente De Rosa, se non ricordo male il nome, sì. Quando arriverà anche in Calabria una primavera? Mi sembra che ci siamo. Guardi, io la definisco, mi perdoni, più alba, mi piace più questo termine, l'alba calabrese secondo me è già incominciata. È cominciata grazie a tanti calabresi, che io sono uno di questi, è da anni, da decenni, da 10 anni, da 15 anni che denunciamo questo stato di cose in Calabria, denunciamo questa immobilità della politica, questa non volontà politica di destra e di sinistra, perché poi io dico che a Reggio Calabria in consiglio regionale c'è il partito unico calabrese, il PUC, partito unico calabrese, quindi oggi i cittadini calabresi stanno reagendo, lo hanno dimostrato a Reggio Calabria nella manifestazione non 'Ndrangheta, dove c'era tantissima gente, io ero presente anche se con la stampella perché zoppicavo, ma ero presente, ho voluto sfilare pure io, e quindi questa è una dimostrazione dimensione di coraggio, cioè la gente sta veramente prendendo coscienza e capendo che non possiamo stare alla finestra e a lamentarci, ma dobbiamo reagire ed essere gli attori principali noi di questa nuova alba. Questo sta avvenendo e sta avvenendo anche grazie a uomini come il procuratore Pignatone, che con molto coraggio è arrivato a Reggio Calabria e veramente sono visti sconvolgimenti, come in altre procure di province come Vibo Valentia, come Crotone. Quindi veramente c'è questa volontà, che è una volontà, una spinta generale verso al cambiamento di sistema. Guardi, mi fa molto piacere che lei la chiami Nuova Alba, perché poi l'alba prelude un giorno, ce lo auguriamo, molto lungo, molto estivo. È importante anche quello che lei racconta sulla manifestazione non 'Ndrangheta e quello che ci ha raccontato anche in queste settimane il nostro collega Daniele Biacchessi, e poi appunto il nostro viaggio nel movimento civile nella Calabria che reagisce. Usciamo dagli stereotipi, lo dico anche a chi scrive, per favore, sempre le solite cose, nord, sud. Dottor Callipo, ci fermiamo però un minuto che abbiamo il meteo e la pubblicità, e poi vorrei concentrarmi, essendo questo un programma economico, sul danno che crea la 'Ndrangheta alla ricchezza dei calabresi. Non è vero che redistribuiscono, non è vero che comunque fanno economia, distruggono l'economia, distruggono la concorrenza, impoveriscono i cittadini. È una finta illusione quella che le mafie in qualche modo proteggono. Tra poco la borsa, che ripeto ha chiuso con più 0,4%, è molto bene Steam Microelectronics, più 7% nel finale. Vorrei però concludere, continuare a concludere il nostro primo tema dedicato al danno economico della 'Ndrangheta in Calabria. Tra l'altro è in uscita, in questi lo citiamo volentieri, un libro che si chiama Metastasi, sangue, soldi e politica tra nord e sud, la nuova 'Ndrangheta nella confessione di un pentito, chiare lettere, Gianluigi Nuzzi e Claudio Antonelli, i due autori. C'è un intreccio spaventoso. Comunque, visto che parlavamo e parliamo di economia, cerchiamo anche di far capire che non siamo solo moralisti, come scrivono alcuni. Allora, 44 miliardi di euro di fatturato, il 3% del PIL se ne vanno nelle casse dei calabresi che stanno in Calabria, ma stanno anche a Milano, l'abbiamo scoperto con l'inchiesta della Boccassini. La 'Ndrangheta in mano al 60% del giro d'affari del traffico di droga, gli appalti pubblici, le compartecipazioni in imprese valgono 5 miliardi e 7, l'estorsione e usura vale 5 miliardi, il traffico d'armi 3 miliardi, la prostituzione 3 miliardi. È economia questo o no? E poi il rapporto BCC Demoscopea lo scorso ottobre, senza la 'Ndrangheta il PIL calabrese crescerebbe di una cifra pari al 20% per un imprenditore su 4, il 3% del complessivo PIL calabrese. Allora, dottor Callipo, quanto male fa la ricchezza, oltre che a vivere civile, la 'Ndrangheta? Quanto è difficile far capire ai suoi concittadini, ma non solo, che è elemento di regresso, non di progresso e convivenza? Guardi, la 'Ndrangheta è un cancro per la Calabria che ha messo al tappeto l'economia e lo sviluppo della Calabria. E purtroppo per paura, non per connivenza come dice qualcheduno, ma per paura i calabresi l'hanno subita e ancora la stanno continuando a subire. Tenga presente che tra tutti questi dati che lei mi ha detto manca un dato essenziale che purtroppo non è riscontrabile, che sono i calabresi imprenditori calabresi con attività in Calabria che sono andati ad investire fuori dalla Calabria, e questa è gente che lo ha detto a me quando io ho subito quegli attentati e ho dichiarato pubblicamente che io resterò in Calabria e continuerò a fare altre imprese, cosa che da quattro anni a questa parte ne ho fatti altre due, uno sul turismo e uno su una fabbrica di gelato, e loro mi raccontavano la loro storia. Io lavoro a Gioia, però il mio sviluppo l'ho fatto ad Ancona. Io lavoro a Polistena, il mio sviluppo l'ho fatto in Toscana. C'è gente che i margini, gli utili che ha prodotto in Calabria è andata ad investirli fuori, da Roma in su, perché lì è un illustre sconosciuto, mentre in Calabria qualsiasi cosa si fa viene additato, e la 'Ndrangheta ovviamente ci sta di sopra. Quindi questo è ecco perché la Calabria si è impoverita. A questo giunga che sono arrivati tutti i prenditori, io li definisco così perché vengono a prendere e a derubare questa sfittica economica che c'è, con falsi progetti, quanti progetti sono stati veramente diciamo poi sequestrati dallo Stato, dalla Guardia di Finanza. Quelli erano tutti soldi che andavano spesi bene per creare posti di lavoro, invece sono progetti fasulli, fittizi, con ultimamente anche a Vibo, qui a Pizzo, un albergo con fatture sequestrato 10 milioni di euro per fatture false e per fatture gonfiate. Questo è il problema, non c'è stata quell'attenzione perché è stata tutta una manovra della mala politica, dei prenditori e dell'andrangata, e qualcheduno avrebbe aggiunto anche di associazioni deviate. Questa è la catena che bisogna spezzare, e credo che sia il dottore Pignatone che altri sono orientati finalmente su queste cose. E Pignatone e il suo sostituto Prestipino già bene, molto bene, hanno operato a Trapani, e molto applauso è arrivato dalla decisione, abbiamo avuto anche ospiti, di portarli alla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Visto che lei comunque adesso è il reggente e quindi insomma il commissario della Confindustria di Reggio Calabria, sciolta appunto dal collegio dei proprietari di Confindustria, lei ha intenzione di prendere iniziative forti fin da subito, dopo anche le dichiarazioni di ieri di Antonello Montante, che è il vicepresidente con la delega appunto alla legalità in Confindustria? Cioè, lei pensa di iniziare a dare dei segnali subito forti, a espellere qualche imprenditore in odor di 'ndrangheta o che è noto che paghi il pizzo? Guardi, io non vado a Reggio Calabria, come ho dichiarato, a fare lo sceriffo. Io vado a Reggio Calabria per rimettere in piedi un'associazione di imprenditori e per far rispettare la legge, le regole, lo statuto di Confindustria e il codice etico. Poi nell'ambito di questo ci sta tutto il resto. Cioè, non posso, devo attenermi a queste cose. Tenendomi a questo, capiterà che se c'è qualche persona che non rientra in quei canoni, ovviamente bisognerà espellerla dalla cosa, senza nessuna remora, senza nessuna paura. Il rapporto con il ministro Maroni, perché insomma, noi l'abbiamo avuto anche nostro ospite, e a noi è sembrato, lo dico con il massimo distacco dalla politica, oggettivamente molto consapevole che se non si ferma l'andrangheta in Calabria, ce l'ha anche detto, i tentacoli sono già arrivati ampiamente nell'interland milanese. L'operazione che citavo prima, coordinata dal PM Ilda Boccassini, ha portato arresti soprattutto nella zona dell'interland milanese. Ci sono interi paesi, penso Bucinasco, commissariati, l'abbiamo raccontato molte volte. Il rapporto che lei col ministro? Ma guardi, io col ministro non ho nessun rapporto, è una persona che stimo, e se è vero che adesso sta succedendo tutto quello che accade in Calabria, può essere anche secondo me merito suo, perché fino ad oggi queste forze che volevano contrastare l'andrangheta secondo me erano tenute un po' a freno. Oggi vediamo di arresti, di arresti dei latitanti, sequestri di patrimoni. Io è da 20 anni che dico che l'andrangheta bisogna colpirla sul patrimonio, perché l'andrangheta non è che fa soldi per tenerseli sotterrati e nelle campagne, l'andrangheta fa soldi per reinvestirli. E quindi ci vuole massimo controllo su tutte le attività commerciali e industriali che ci sono in Calabria, perché anche lì si riciclano soldi, passano soldi e ci sono delle società fittizie. Quindi ecco perché io 4-5 anni fa ho chiesto al presidente Ciampi, in un momento di grande sconforto, l'invio dell'esercito in Calabria, non per militarizzare il territorio, ma perché questi ragazzi dell'esercito potessero essere di aiuto alle forze di polizia in quei lavori sedentari, e quindi liberare delle forze che lo Stato non poteva mandare qui in Calabria perché non c'erano. Perché bisogna fare i controlli, bisogna fare dei controlli rigidi sulle banche. Sulle banche lì ci vuole veramente un controllo, perché le operazioni passano tutte dalle banche, e quindi se vuole lo Stato può questi registi che ci sono in Calabria, perché vedo ormai per la economia sfittica che c'è in Calabria, poche aziende lavoriamo, poche aziende lavorano che sono vicine allo Stato e che si sentono vicini allo Stato, ma il resto non c'è niente. Quindi l'andrangheta, tutti questi soldi, questi patrimoni, queste li investe al nord, dove c'è la ricchezza, dove si costruisce, dove le case hanno un altro valore, capisci? Quindi questo è, bisogna partire dalla Calabria a bloccare, poi vedrà che mano a mano, quando lei taglia prima un ramo vicino all'albero, poi il ramo secca, e piano piano seccheranno anche queste. Callipo, in bocca al lupo veramente. Tra l'altro mi sembra di capire, lei teme che, già alcune inchieste, quello che già alcune inchieste hanno evidenziato, cioè che vi sia una commistione tra gruppi di potere, andrangheta vera e propria, alcune banche, banchieri, quindi colletti bianchi e la massoneria? Guardi, qua in Calabria la catena, il circolo è questo. Mala politica, mafia con la penna, la burocrazia, 'ndrangheta e associazioni deviate. Questo è il circolo che gestisce l'economia e mantiene queste persone ignoranti, io definirei, che gestiscono la politica, perché gli sta bene così e quindi li foraggiano, e non si capisce altrimenti come gente che in 30 anni non ha fatto niente per la Calabria prende un numero di preferenze spropositato, 15.000, 16.000 preferenze, ed è una persona inetta, una persona che non ha mai fatto niente per la Calabria, che si trova una volta all'opposizione, una volta in maggioranza, senza sapere nemmeno come. Perché? Perché questa catena, questi registi di questi quattro chiamiamoli istituzioni, poteri, di questi quattro gruppi, gli sta bene che ci siano quelle persone lì, perché così loro fanno i porci comodi loro. Lei vive sotto scorta, immagino, Callipo? No, io ho solamente una scorta da quando sono nato, che è il mio angelo custode. Allora, a maggior ragione, in bocca al lupo. Grazie per il lavoro che fa per tutto il paese, non solo per i calabresi, e in bocca al lupo veramente nel suo nuovo ruolo di, l'ho chiamata, commissario della Confindustria di Reggio Calabria. Grazie a Filippo Callipo. Grazie assai, grazie a lei, buon pomeriggio. Allora, visto che abbiamo elogiato anche il lavoro del ministro Maroni, ma com'è possibile che non abbia la scorta, Callipo? Questo è un paese in cui ce l'hanno tutti, la scorta, i direttori dei giornali. Date la scorta anche a Callipo, col ruolo che ha, con quello che ha detto. Banca d'Italia, dove sei? Batti un colpo. Le banche calabresi, le filiali anche di grandi gruppi italiani, andiamo a controllare, ci sono norme antiriciclaggio, non è possibile che questi soldi si muovano senza essere visti. E poi c'è un messaggio che mi fa impazzire, perché dice, insomma, siete moralisti. Allora, questa è una cosa bellissima, perché essere chiamati moralisti nel paese che ha la più grande concentrazione di criminalità organizzata, il più alto tasso di evasione a livello europeo, il più alto livello di corruzione a livello europeo, dove non vengono a investire anche per questi motivi, mi fa venire il sospetto che chi dice che siamo moralisti lo faccia perché è lui stesso immorale. Allora, la borsa, fermo restando che poi parleremo di borsa anche con l'astrologa, perché non possiamo fare la puntata. Grande quel signore che ha parlato. Sì, lo ha nominato la Confindustria attraverso i propri viri commissario di una Confindustria di Reggio Calabria che è stata azzerata. Ok, quindi qualcosa si muove, ma andate a nord, il tonno prodotto da Callipo lo compriamo per sostenere il proprietario. Ha ragione Claudio da Padova, complimenti, non ci era venuto in mente, adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo anche questo invito. La borsa, allora dunque, meglio dire che vi siete sbagliati che ha appena ricevuto la scorta. No, Callipo, l'abbiamo appena sentito, ha detto che non ha la scorta. Se l'ha ricevuta 20 secondi fa, non lo so. Comunque, parliamo di borsa un attimo, poi torniamo a alleggerirci con l'astrologa e così a prendere in giro garbatamente tutti i grandi soloni della finanza, gli analisti che fanno previsioni che poi non si confermano. Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Giornata abbastanza piatta, più 0,3 a Milano, invariata a Parigi, pochissimo il calo, basso il calo per Francoforte, meno 0,1. L'America perde lo 0,2, Londra meno 0,4. ST Microelectronics, il caso del giorno, più 7,2%. Sì, in questo caso, anche se tu non vuoi commentare report di analisti, bisogna dire che è proprio quello che è stato a movimentare le azioni. Exambient Paribas, una casa francese che quindi ben conosce la società, visto che ST è per metà italiana e per metà francese, ha riacceso i riflettori sull'azienda e i titoli sono letteralmente volati, appunto mettendo a segno sul finale questo più 7%. Ancora, per quello che riguarda i titoli, molto bene, Unicredit più 2,6, Autogrid più 2,1, Italcementi più 1,80, Fiat più 1,20, Unicredit. Sì, Unicredit invece in questo caso beneficia delle indicazioni fornite ieri dai vertici dell'istituto, che hanno fatto il punto sulla situazione della banca nell'Europa est orientale e hanno detto che appunto nei prossimi 5 anni verranno aperti 900 sportelli in tutta l'area, un'area che conta molto e che già nei primi 9 mesi dell'anno si è fatta sentire sui conti dell'azienda, pesando per il 56% sui profitti pretasse dell'istituto. Ancora, per quello che riguarda Autogrill più 2,1%, Fiat, visto che insomma si è rotta la trattativa per Mirafiori e il ministro Saccone ha auspicato oggi che si possa riprendere, hanno rotto FIM e WILM, oltre al no della FIOM, scusatemi, FIM e WILM si sono riservati di decidere assumendosi una responsabilità gravissima, secondo il segretario generale di Fismic Roberto Di Maulo. Comunque salta al tavolo, niente accordo per Mirafiori, non ci sono le condizioni di investimento, dice la Fiat. Il titolo in borsa ha iniziato le contrattazioni al rialzo nel momento stesso in cui è uscita la notizia di cui parlavi tu di Mirafiori. I titoli hanno registrato uno scossone, ma poi hanno continuato a salire nonostante tra l'altro l'andamento volatile di Piazza Affari. Hanno chiuso con un progresso dell'1,19%. Quest'oggi a riaccendere l'interesse su Fiat è stato un articolo del Mondo che sostiene che sia allo studio nel Lingotto la quotazione di Ferrari, ma sul listino di Hong Kong. Sempre ieri inoltre sono circolate altre indiscrezioni rilanciate da siti specializzati sul settore auto, che ipotizzavano che ci sia allo studio la cessione di Alfa Romeo, sia interessata a Volkswagen, e tale dossier ovviamente favorirebbe Fiat, non solo perché in tal caso il Lingotto si troverebbe a incassare liquidità, ma anche perché non si troverebbe più costretto a investire sul rilancio del marchio. Ancora, A2A, che succede? Chiedono molti ascoltatori, oggi perde il 3,50%, cito anche Geox, di nuovo in calo, meno 2, Mediolanum meno 1,20, Finmeccanica meno 1 come l'Automatica e Fondiaria Sai e Prismian, Generali meno 0,80 come Campari, Pop Milano meno 0,60 come Enel e Telecom Italia. A2A. A2A ha risentito dell'andamento debole dell'intero comparto delle utility in Italia e in tutta Europa. Ieri comunque i titoli erano andati molto bene sull'ipotesi che la società stacchi un maxi dividendo, oggi di conseguenza sono scattate le prese di beneficio. Allora, grazie, buon fine settimana a Eleonora Micheli e a tutti i colleghi di Radio Cori. Sole 24 ore, devo dare solo i migliori e i peggiori in assoluto. Poca roba oggi, c'è Mondo Home più, meno 7, Unilever meno 4 e A2A abbiamo detta. Invece sul fronte di chi guadagna, Mocker Medicine più 11, Bialetti più 8,5, Philips più 7,2, Stima Creatron, abbiamo detta, Seat più 6, De'Longhi più 5,5. Di nuovo buon fine settimana ai colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. E allora, nella giornata in cui abbiamo commentato il rapporto del Censis, che ripeto approfondiremo lunedì, e stiamo cercando in qualche modo di sconfessarlo, perché il Censis, è una battuta chiaramente, dice l'Italia è appiattita, non c'è più legge, non c'è più desiderio, è un paese che non deve temere tanto dalla crisi economica per i motivi economici, ma sulla tenuta per il paese, non c'è vigore per il futuro, appiattimento intellettuale. Noi abbiamo dedicato mezz'ora di questo programma al tentativo di rinascita, di primavera, di alba in Calabria. E devo dire che potere della radio, adesso arriviamo alle previsioni dell'astrologa sulla borsa, abbiate anche un po' di comprensione per il conduttore, perché passare dall'andrangheta all'astrologia, altro che Pindaro, però potere della radio, qualcuno ascoltava il nostro programma e ci ha chiamato. Mentre ripetiamo l'appello al ministro Maroni, nostro ospite molte volte, che stimiamo, date la scorta a Callipo, date la scorta al commissario di Confindustria a Reggio Calabria, più volte minacciato dall'Ndrangheta, è successo qualcosa nel frattempo che obiettivamente non conosciamo. Siamo in collegamento con il padre gesuita Giovanni Ladiana da Reggio Calabria. Si è appena conclusa, buonasera innanzitutto, mi sente? Cosa si è appena conclusa, e le assicuro che è una pura coincidenza che ci occupassimo oggi, a Reggio Calabria? Ancora non si è conclusa, stiamo facendo un incontro come tutti i mesi, il giorno 3 per ricordare la bomba del 3 gennaio, come il movimento Reggio Non Taci, che è nato appunto dal 3 gennaio e che appunto comprende gente, siamo adesso ormai diverse centinaia di persone e facciamo questi eventi ogni 3 di mese e poi cerchiamo di rispondere immediatamente a tutte le cose che stanno avvenendo, bombe, intimidazioni, eccetera. Ecco, solo siamo in 2, siamo perché il movimento è un movimento orizzontale senza leader. Ah, ed è aumentato, come ho visto che insomma ci avete raggiunto, vorrei capire anche questo, è aumentato, la vedo un po' questa primavera o alba calabrese a cui noi dedicheremo l'intero viaggio la prossima settimana nei nostri GR in altri approfondimenti? Guarda, io prima di parlare di primavera voglio vedere i germogli diventare un po' più grandi personalmente, per cui io dico intanto abbiamo sicuramente c'è un gruppo di persone che non è un piccolo gruppo che da 11 mesi ormai sta cercando di lavorare a tutti i livelli. Questa sera siamo in una scuola media di uno dei quartieri difficili dove per intenderci viveva Tegano, il famoso boss che è stato applaudito sotto la questura. E stiamo facendo un incontro sulla formazione nella scuola e nell'università, anche dopo quello che è successo adesso nell'università. In bocca al lupo anche a voi, quindi a lei come padre Giovanni Ladiana, ma soprattutto al Movimento Reggio Non Tace. Poi c'è chi scrive: che palle la trasmissione di oggi. Senta, caro ascoltatore, cambi canale, io non so che farci. Secondo me 44 miliardi di giro d'affari dell'Andrangheta sono un tema più economico, però se i problemi sono sempre altri, ci indichi di che cosa avremmo dovuto parlare oggi. Grazie, in bocca al lupo a lei, padre Ladiana, a tutti quelli che aderiscono al 3 di ogni mese, a manifestare in piazza con lo slogan Reggio non ta. Se fai pubblicità al nostro sito c'è la possibilità di vedere dal di dentro quello che noi facciamo. Il sito è www.reggionottace.it. Grazie. E c'è un gruppo su Facebook che è il Movimento Reggio Non Tace. Grazie. E invece do anche un'altra informazione: il tonno dell'imprenditore Callipo, così facciamo pubblicità gratuita, si può comprare oltre che su internet anche alla Conad e all'Esselunga. Adesso però cambiamo tema e vediamo di andare in conclusione un po' più leggeri, oddio, anche se il tema serio è. Allora, arriviamo all'astrologa. Vedo tantissimi ascoltatori ancora in attesa dell'astrologa. Bene, un pubblico che passa dal serio al faceto anche con una certa fluidità. Ancora un paio di notizie della giornata di oggi. Volete sapere come sta andando Wall Street? Meno 0,20%. Volete sapere dell'euro? Vi siete appena messi in collegamento, comunque lo diamo volentieri. È arrivato a quota 1,34, adesso è 1,33,71. Record per il, o meglio, vicini al record sull'oro, di nuovo a $1,400 l'oncia, petrolio $87,80 e la benzina che supera i massimi da maggio a €1,44. I titoli, bene Steam Microelectronics, molto bene, più 7,20, l'abbiamo appena raccontato, Unicredit più 2,60, negativa invece A2A meno 3,5%. E allora vedo i messaggi che da mesi ci tempestano, per così dire, ma insomma le previsioni sbagliate, il collocamento di Enel Green Power che è sotto la forchetta, lo so, previsioni anche su vari titoli, noi report non li stiamo più dando, l'unico report che non li diamo, lo rispiego un'altra volta, perché finché le banche che mettono questi giudizi sui titoli non chiariscono quanto hanno in portafoglio loro di questi titoli, il sospetto nostro è che che vi sia un conflitto di interessi, perché se tu hai 1 milione di euro in azioni del titolo X e dici che il titolo salirà e poi scopriamo che vendi, forse qualcosa non torna. Quindi finché i report non vengono associati a la banca che ovviamente possiede 1 milione, 2 milioni, 4 milioni di quel titolo, noi non li leggiamo. L'unico report che ci interessa è quello stellare. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Salagadula, Mencicabula, bibidi bobidi. Torna Grazia Mirti, l'autrice di un libro introvabile, perché so che molti ce l'hanno chiesto. Casa editrice Il Sole 24 Ore, guarda caso, ma insomma, il libro si chiamava Investire con gli astri, uscito nel 99 però. E allora, Grazia Mirti, di nuovo buonasera. Buonasera a voi. Oh, che bello sentire la sua voce così leggera dopo una puntata tutta sulla criminalità organizzata, praticamente i danni economici. Allora, l'ultima volta che abbiamo avuto ospite era all'inizio dell'anno, l'11 gennaio, se non ricordo. No, penso che sia successo di nuovo intorno a settembre. Ah sì, poi è venuta a settembre, e io mi riferivo ai dati di inizio gennaio, poi a settembre, e adesso vorrei iniziare con le previsioni del 2011. Lei aveva detto, molti ascoltatori ce l'hanno fatto notare, guardi, io nemmeno lo ricordavo a memoria, aveva previsto che a fine anno vi sarebbe stato un leggero calo, così abbiamo visto con l'attacco all'euro. Potremmo partire, diciamo, dall'attacco ai debiti sovrani per capire in base agli astri come si svolgerà. Tanto anche ieri Dominique Strauss-Kahn ha detto alcuni paesi sono sull'orlo del baratro, non ha specificato quali, allora tanto vale l'astrologia se dobbiamo fare questi ragionamenti. Abbia un minuto di pazienza che c'è il traffico. Strade in diretta. Sulla 26 dei trafori il traffico non è più bloccato, ma restano 3 km di coda per un incidente tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce, quindi in direzione nord. Ci sono 4 km di coda sulla 22 del Brennero per un incidente tra Campo Gagliano e Carpi verso l'Austria. Sulla 13 Bologna-Padova si resta in coda per un altro incidente tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Intensa la circolazione in tutte le principali aree urbane, dove al solito traffico del venerdì si aggiunge anche quello in partenza per il ponte dell'Immacolata verso le località turistiche di mare o montagna. Forti rallentamenti e code in particolare in uscita da Milano, attorno a Roma, sul nodo di Genova e nell'area fiorentina. E un nostro gentile ascoltatore al numero verde 800 08 36 22 ci segnala code sulla 4 Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Novara Est verso Torino. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora circa. Focus Economia. Salagadula, Mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Sì, dicevamo appunto ieri il direttore generale del Fondo Monetario si è beccato anche il nostro gufo per questi discorsi del tutto inutili a nostro avviso, o fa i nomi o nulla. Vediamo se i nomi li fa la nostra astrologa. Allora, l'attacco ai debiti dei vari paesi, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo, l'ipotesi Italia, oggi tutti gli spread si sono ridotti, ma gli astri dicono che? Gli astri dicono che abbiamo un pericoloso solstizio d'inverno, e vale a dire che il giorno 22 dicembre alle 0:40, quindi nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, è un punto importante dell'anno perché praticamente inizia l'inverno, abbiamo una sequela di pianeti concentrati nel segno del Capricorno, vale a dire il Sole, il Nodo, Plutone e Marte. Prima osservazione, Marte è di nuovo nella stessa posizione in cui si trovava il fatidico 11 settembre. De che? Del 2001? Sì. Poi, seconda osservazione, sono pianeti completamente antitetici ai pianeti degli Stati Uniti che risalgono al 4 luglio 1776, quindi hanno delle belle presenze nel segno del Cancro che a quel momento lì saranno completamente avversate. Quindi direi che prima di parlare dei paesi dell'Europa dovremmo parlare del rischio che gli Stati Uniti peggiorino ulteriormente. Sì, oggi tra l'altro se n'è accorto anche Obama, che ha detto che insomma la disoccupazione è tornata a crescere negli Stati Uniti, gli ordinativi industriali tornati a calare, sono un dato inaccettabile. Prego. Secondo me è veramente una manifestazione di una crisi pesante e anche negativo per quanto riguarda Obama. Questo momento del solstizio d'inverno e della successiva luna nuova che si formerà all'inizio dell'anno 2011 è alquanto negativo per questi paesi che sono in rischio e sono già stati aiutati e dovranno esserlo ancora, in particolare la Grecia e poi anche il Portogallo, mentre l'Irlanda sembrerebbe di nuovo in difficoltà all'equinozio di primavera. Qui veniamo al secondo punto di grande difficoltà. No, piano, perché qua ci sono promotori finanziari che stanno prendendo nota. in tutta Italia, lo so, anche se non lo confesseranno mai, ce lo scrivono. Allora, lei dice, io non riesco a ripetere, già che capisco... Sono due punti, ecco, che sono molto delicati. Uno, abbiamo detto, gli Stati Uniti, al 22 dicembre, e quel momento lì può essere anche un momento molto particolare, perché sia l'euro che la CE sono nati il 1 gennaio, e quindi sono capricorno. No, ma lei mi deve dire, Mirti, quando, allora, per Stati Uniti, lei dice, avrà dei paesi, avrà dei pianeti contrari, se ho ben capito, Marte. Quindi vanno male gli Stati Uniti a fine anno e a inizio del nuovo, pesantemente male. Poi segniamo tutto, come sempre facciamo le verifiche, pesantemente male. I paesi dell'Europa, i paesi dell'Europa, a rischio, diciamo. Io posso, ho qui addirittura tutti i temi natali dei vari paesi, e sono purtroppo con delle date di nascita estremamente negative, per esempio la Grecia, che è nata dal punto di vista astrologico il 24 luglio del 74 alle 4 del mattino, quando il re va via, no? E ha tre pianeti in Cancro, quindi a fine anno è di nuovo in braghe di tela nella tempesta. Chi? L'Italia? No, la Grecia. Ah, la Grecia, mi scusi. È di nuovo in crisi. Mi sono distratto. Il Portogallo, invece, 25 aprile 1974, anche lui ha Marte e Saturno all'inizio del Cancro, anche lui viene battostato alla fine dell'anno. Allora, senza spiegarmi, perché io poi mi perdo con i pianeti, guardi, non so nemmeno il mio ascendente, però mi dica, siccome ne abbiamo sentite di ogni tipo, spiego anche l'iniziativa. È nata 2 anni fa, quando ci siamo un po' seccati di ascoltare previsioni che venivano regolarmente sconfessate. Mitica la Goldman Sachs, che disse un mese prima del crollo di tutta l'economia mondiale il petrolio arriverà a $240, a luglio lo dice, a settembre, a ottobre fallisce Lehman Brothers e il petrolio va a $40. Mitica la Banca Centrale Europea, che a luglio del 2008 dice il problema è l'inflazione, alza i tassi, e ottobre crolla Lehman Brothers e crollano i mercati e bisogna salvare le banche. Abbiamo deciso di inserire anche l'astrologa, perché tanto vale, no? Dopodiché, questa idea non è che ce l'abbiamo solo noi, Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. Tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausto stesso, pure molto rispettabile, Prospero, il mago di Oz, Harry Potter, naturalmente c'è anche Mandrake, il mago Witz, Satanic. Devo dire anche il mago Telma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Nessuno di questi ha mai detto ho sbagliato. Hanno sempre sbagliato gli altri. La pensa così anche il ministro Tremonti. Adesso sto zitto e la lascio andare avanti. Grazie Mirti. Eravamo arrivati al Portogallo, arriviamo all'Italia. Abbiamo ancora 4-5 minuti. Allora, l'Italia secondo me non è in una situazione molto favorevole, però non credo che crollerà assolutamente, anche perché, come stavo dicendo prima, il fatto che la CE e l'euro siano nati in Capricorno fa sì che il passaggio di tutti questi pianeti in Capricorno li risollevi e li rincoraggi, quindi avremo una nuova positiva partenza per quanto riguarda l'euro. Non sono così preoccupata. I pianeti negativi li ha la Merkel, non l'euro. Quindi sarà Mrs. Merkel, semmai, che dovrà mettere a posto alcune questioni all'interno e all'estero. Poi l'equinozio, lei è Cancro, l'equinozio di primavera del 2011 è un altro punto molto dolente. È il 21 marzo e andrà tenuto molto attentamente d'occhio, perché ci sarà un accumulo straordinario di pianeti in Ariete, conflittuali a Plutone in Capricorno, conflittuali a Saturno in Bilancia, formando così quel cardinal climax che viene definito quando si hanno scontri violenti tra pianeti molto lenti. E in quel momento lì sarà di nuovo l'Irlanda ad essere in difficoltà, perché avrà di nuovo dei transiti molto delicati. E anche la luna nuova, che viene poco dopo l'equinozio di primavera, è di nuovo inquietante. Invece, quando arriviamo al solstizio d'estate, Giove è già entrato nel segno del Toro, che è diciamo, è la posizione migliore del pianeta per quanto riguarda l'economia, per cui saremo già oltre, e lo stesso per l'equinozio d'autunno. Quindi i due punti negativi sono fine anno, 22 poi, dicembre, esatto, e l'inizio subito dell'anno, e poi invece l'equinozio di primavera e la luna nuova successiva all'equinozio di primavera. Allora, buon fine settimana. Innanzitutto grazie a Barbara Bianchi, a Gaia Romani per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Buon fine settimana a tutti voi in ascolto. Da Sebastiano Barisoni, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.